tempo vissuto senza mai esser felice. Quanto buio intorno a me, senza un'ombra di speranza per quella mia inutile vita. Vivevo io così. Poi qualcuno m'ha parlato di Gesù e del suo amore. Quanta luce ora c'è, Signor, io lascio